Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Radio 24 Reportage. Ultimo stadio di Giovanni Capuano. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. Sono passati 30 anni dalle notti di Italia 90. 30 anni che nel momento del via della nuova stagione calcistica, quella del post-Covid con mille difficoltà logistiche ed economiche, conservano un'unica certezza. Il calcio italiano per stadi e infrastrutture è ancora fermo al 1990 o quasi, superato dal resto d'Europa nella corsa all'oro, non solo da quella dei movimenti trainanti come Inghilterra, Spagna e Germania. Mentre i nostri club fanno i conti con burocrazia e veti incrociati, gli altri corrono. Negli ultimi 10 anni in Europa sono stati spesi oltre 20 miliardi di euro in realizzazione di nuovi stadi di calcio. L'Italia ha investito le briciole, facendo peggio anche di Russia, Polonia, Turchia, Ucraina, Ungheria e persino dell'Azerbaigian con i suoi 887 milioni spesi per 2 impianti. Tutti hanno avuto un aumento immediato di affluenza spettatori, mediamente il più 50%. Tutti hanno visto crescere i ricavi, tutti tranne noi. Sì, è morito tutte e due. Espulso con la Il calcio nell'era del Covid si gioca a porte chiuse in un clima surreale, eppure la questione stadi resta prioritaria in Italia ancor di più. A Roma e Milano i progetti si intrecciano con i destini di proprietà che vengono da Stati Uniti, Cina e Regno Unito. A Bergamo si lavora per cambiare pelle allo stadio acquistato dall'Atalanta, poi rimodernato. Udinese e Juventus, restando alla Serie A, sono gli unici club a presentarsi con strutture di nuova generazione. Altri sono alla fase del progetto, non senza difficoltà. Partiamo da Firenze. Il nuovo proprietario Rocco Commisso è arrivato dagli States nell'estate del 2019 con l'idea di fare fast, fast, fast, quindi in fretta, adottare il club di centro sportivo e stadio nuovo per superare i limiti del Franchi, affascinante per la sua architettura ma inaugurato nel 1931. Nulla di tutto questo, almeno fino ad ora. Gio Barone è il braccio destro di Rocco Commisso, si sta occupando del dossier stadio. Siamo venuti qui in Italia per fare qualcosa che rimanga a Firenze e al calcio in generale. Queste sono state le prime parole di Rocco Commisso. Tutte le analisi e i dati dimostrano che senza infrastrutture di proprietà sia praticamente impossibile competere a un buon livello, non solo in Italia ma anche in Europa. La proprietà Commisso viene da un paese molto flessibile in tema di possibilità per un imprenditore di investire sulla propria attività. Come giudicate l'approccio con la realtà italiana? Adesso siete qui da più di un anno. Qui appena arrivati abbiamo provato a mettere in campo regole e principi che in America funzionano, ma non è stato possibile. Noi ovviamente rispettiamo leggi e regole italiane, ci mancherebbe, ma vorremmo trovare anche il modo di riuscire a superare i numerosi ostacoli rallentamenti che la burocrazia e le leggi, magari troppo vecchie e non aggiornate, oggi sono un enorme ostacolo per qualunque imprenditore voglia investire qui in Italia. Il calcio italiano ha un gap infrastrutturale rispetto agli altri campionati. E, muovendosi così come sta facendo oggi, secondo la sua opinione, è in grado di colmarlo questo gap? In realtà in Italia bisognerebbe prima intervenire su chi governa e chi guida il calcio con un sistema di governance che funziona al meglio e riesca a mettere e tenere tutti uniti e d'accordo. A Bologna invece hanno scelto la strada della ristrutturazione completa del vecchio Dall'Ara, rinunciando in parte alle possibilità di ottimizzazione dei ricavi, ma restando ancorati al tessuto urbano dove lo stadio è inserito e alla tradizione. Claudio Fenucci, amministratore delegato del club Felsineo. Perché il Bologna ha scelto di percorrere la strada della ristrutturazione del Dall'Ara piuttosto che pensare a un impianto nuovo? Ci sono diversi motivi. Il principale è che quando siamo arrivati il Comune aveva già deliberato in Consiglio la riqualificazione dell'impianto come opzione strategica per la città, anche alla luce della possibilità di avere un impianto moderno senza consumare nuovo suolo. La riqualificazione dell'impianto comunque libera circa 22.000 metri quadri all'interno dell'impianto destinati a hospitality e anche ad attività che sono aperte durante la settimana, quindi Dall'Ara può diventare anche un polo di attrazione. Dall'Ara è il campo dove Bologna ha conquistato i suoi scudetti, in cui comunque è nata la storia di questo grande e importante club, e ci sembrava giusto continuare in questa tradizione. Che impatto pensate di poter avere Dall'Ara quando sarà ristrutturato? Sotto l'aspetto economico, probabilmente i ricavi che lo stadio riqualificato genera saranno sicuramente sufficienti per ripagare gli oneri finanziari legati alla riqualificazione, ma non saranno in linea con quelli che poteva generare un impianto nuovo. Sotto l'aspetto, diciamo, del legame con la città rimarrà sempre più forte, perché effettivamente la caratterizzazione e la continuità la presenza della squadra all'interno di un impianto così importante nella storia della città, credo sia un elemento di continuità che non va assolutamente tralasciato. L'età media degli stadi della Serie A era nel 2019 di 56 anni, uno su quattro ancora con pista di atletica, solo il 12% dotati di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Dal 2015 qualche intervento è stato fatto, ad esempio aumentando del 15% il numero degli skybox, del 30% la presenza di attività commerciali, del 20% l'area dedicata alle hospitality. Il futuro però è già negli stadi di terza generazione, digitali e connessi. Il professor Giuliano Noci è docente di ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Professore, ma è meglio una ristrutturazione anche complessiva di uno stadio o oggi conviene disegnare da zero un progetto nuovo? Valgono l'una e l'altra delle opzioni. Credo infatti che il tema di fondo sia un altro: costruire un'esperienza di ingaggio in cui la comunità dei tifosi si ritrovi nello stadio non tanto e solo per vedere l'evento sportivo, ma anche per godere dei servizi complementari. Quali sono i principi fondamentali di uno stadio del futuro? Allora, uno stadio del futuro, in primo luogo, ma è quasi una banalità, non deve vivere solo nella giornata in cui si tiene la partita, quindi ci devono essere tutta una serie di servizi accessori. Detto questo, viene quello che è l'aspetto di profonda novità dal mio punto di vista. Uno stadio vivrà nel futuro per la sua capacità di avere infrastrutture digitali all'altezza, la possibilità di prenotare il posto anche all'ultimo momento, di ricevere all'ultimo momento la disponibilità di spazi per sedie nuove magari in altri ambiti dello stadio, la possibilità di ricevere mentre si è nello stadio delle offerte last minute per servizi presenti allo stadio, la possibilità di utilizzare con i telefonini che tutti hanno meccanismi di realtà aumentata e virtuale per vivere di un'esperienza, per farci capire, simile a quella della Formula 1. Quindi uno stadio che nel connubio fisico-digitale crea un'esperienza completamente nuova. Professore, è sufficiente osservare oggi modelli più recenti prodotti all'estero? Spesso si parla, no, di dirigenti che vanno a guardare altri stadi e per poi riprodurli, o si rischia di restare ancora indietro? Secondo me, per la concezione che ho io del futuro, si rischia di restare ancora un po' indietro. Come definisce la situazione degli stadi in Italia che, lo dicono le statistiche, hanno un'età media di oltre mezzo secolo? Ma sono molto indietro, non tanto e solo per la qualità dell'edificato, ma anche per tutto il tema delle infrastrutture digitali. I tifosi dovranno vivere un'esperienza nuova e speriamo che Covid possa rappresentare un'occasione di riflessione. Siamo a 30 anni da Italia 90. 30 anni fa questo paese ha investito tanto, forse troppo, negli stadi. Oggi che sono passati 30 anni, se lei volesse sintetizzare, come è cambiata la situazione? Noi ci siamo dimenticati molto, nel senso che 30 anni fa abbiamo fatto i stadi molto bene. A quel punto però si è accompagnata una altrettanto evoluzione di quelle che sono le competenze manageriali delle squadre di calcio. Una squadra di calcio, se vuole essere competitiva anche da un punto di vista sportivo, deve raggiungere livelli di fatturato che sono multipli di quelli che ottengono anche le principali attuali squadre italiane. E per far questo occorre concepire il progetto squadra di calcio come un progetto industriale, come una macchina del divertimento in cui non è tanto e solo la dimensione del risultato sportivo che fa la differenza, ma di tutti quelli che sono i servizi che grazie alla squadra di calcio la società è in grado di veicolare alla comunità di tifosi. Sono un appassionato di calcio, seguo le squadre di calcio e il campionato, ci sono una spasmodica attenzione a direttori sportivi e direttori tecnici, non osservo altrettanta attenzione a direttori marketing e a direttori dello sviluppo. Se queste squadre vorranno ottenere risultati anche a livello sportivo, lì dovranno puntare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.